24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta. Le misure di austerità dei paesi europei devono essere accompagnate da riforme strutturali per sostenere competitività e creare nuovi posti di lavoro. Lo ha detto Angela Merkel nel suo intervento al forum di Davos in Svizzera. Secondo la Merkel è necessario dare più competenze all'Europa. Il messaggio del Fiscal Compact, ha detto il cancelliere, è che tutti dobbiamo introdurre un limite al debito e introdurre principi sui conti pubblici. Non ci devono essere più a lungo scuse, altrimenti perdiamo credibilità. Angela Merkel ha ribadito che la Germania non vuole un grande aumento del fondo di salvataggio europeo e soprattutto non vuole essere pressata a promettere qualcosa che non può mantenere. Sono convinta che possiamo tenere unita questa Europa, ha concluso il cancelliere tedesco, definendo l'Europa un grande e magnifico progetto. E veniamo in Italia, dove è stata approvata dalle Camere la mozione di sostegno del governo per l'Europa. Da Roma, Elisabetta Fiorito. Non stiamo chiedendo soldi alla Germania o ad altri, ma vogliamo un ragionevole riduzione dei tassi per i paesi che fanno progressi nel risanamento. Quanto detto nella replica il premier Mario Monti alla Camera, un premier che si è mostrato per la prima volta ottimista al Senato su una soluzione della crisi e che chiede più strumenti per l'Europa. Sentiamo questo passaggio. Sull'altro aspetto, quello degli strumenti di stabilizzazione, di firewalls, la posizione italiana è chiara. È necessario dotare il Fondo europeo di salvataggio finanziario e il futuro Fondo europeo di stabilità di risorse adeguate, di un appropriato coordinamento reciproco nel senso dell'addizionalità delle risorse, cioè risorse che non saranno state utilizzate quando il Fondo di salvataggio finanziario si trasformerà nel Fondo europeo di stabilità, vengano portate a costituire parte della dotazione del nuovo fondo. Grazie ad Elisabetta Fiorito. La Confederazione dei Sindacati Europei, che raggruppa 84 organizzazioni, ha proclamato una giornata di azione europea per il 29 febbraio, alla vigilia del vertice del 1 marzo, per protestare contro l'austerità come sola risposta alla crisi. E listini europei in lieve flessione ieri. Francoforte ha chiuso in leggero rialzo, più 0,04%, Parigi ha perso lo 0,31%, Londra lo 0,50%. Chiusura debole per le borse europee, ma sopra i minimi toccati durante la giornata. Milano ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,56%, beneficiando dell'improvviso risveglio delle azioni delle banche. In particolare si sono infiammate le quotazioni del Banco Popolare, più 11,7%, e di Banca MPS, più 7,8%, ora che la prospettiva di un aumento di capitale temuta nelle scorse settimane si è allontanata. Sono inoltre andate bene le UBI, più 3,34%, e le Unicredit, più 1,28%. Quest'ultime, mentre va avanti l'operazione sul capitale, da 7,5 miliardi di euro. Sono inoltre state ben acquistate le Diasorin, più 7%, sulla scia della performance della concorrente francese Biomieré, che ha pubblicato conti superiori alle attese. Luxottica è salita del 3%, festeggiando i ricavi registrati nel 2011 e pare a 6,2 miliardi di euro, ricavi record. Per contro sono andate giù le Tod's, meno 4,7%, a dispetto dei dati in crescita sulle vendite del 2011. Le Eni hanno perso il 2,6% e le Telecom Italia il 2,47%. Le azioni della compagnia telefonica hanno continuato a patire l'ipotesi che i vertici dell'azienda annunceranno una sforbiciata le cedole. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. L'Italia è 61esima nella classifica sulla libertà di stampa, perde 12 posizioni, lo dice l'ultimo rapporto di Reporter Senza Frontiere. Bacchettata alle democrazie dove arretra la libertà di stampa. Il caso più eclatante riguarda gli Stati Uniti, che precipitano dal 20° posto della classifica nel 2010 al 47° del 2011. L'Italia è 61esima, perdendo 12 posizioni. La Francia è in 38esima posizione. Mentre Finlandia e Norvegia confermano il loro primo posto ex aequo, in Europa sono la Bulgaria, 80esima, e la Grecia, 70esima, ad occupare le peggiori posizioni. Migliora invece la situazione in Tunisia, 134esima, mentre l'Egitto, a causa delle tante violenze sui giornalisti durante la primavera araba, perde 39 posizioni, scendendo al 166esimo posto. Il trio infernale resta composto da Eritrea, Turkmenistan e Corea del Nord. Nei primi 10, dopo Finlandia e Norvegia, risultano in ordine Estonia e Olanda, Austria, Islanda e Lussemburgo, Svizzera, per la prima volta Capoverde e Canada. Per quanto riguarda l'Italia, che ha ancora circa una dozzina di giornalisti sotto protezione, si legge nel testo di Reporter Senza Frontiere, con le dimissioni di Silvio Berlusconi ha da poco voltato la pagina del conflitto di interessi. A preoccupare però il nuovo tentativo di introdurre una legge bavaglio e l'intenzione di filtrare arbitrariamente i contenuti della rete. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vega pronto al lancio alla base di Kourou in Guyana francese. Il nuovo lanciatore europeo ha completato la fase di assemblaggio e attende il conto alla rovescia del 9 febbraio. Vega completa la gamma dei razzi europei, come spiega Antonio Fabrizi, direttore per l'Agenzia Spaziale Europea del settore lanciatori. Con Ariane 5 portiamo grandi satelliti di telecomunicazione a un'orbita che è a 36.000 km dalla Terra. Questi satelliti sono dell'ordine delle 5-6 tonnellate, quindi Ariane 5 è capace di portarne due alla volta. Ci sono altre applicazioni che sono di interesse nella vita di oggi e sono le osservazioni legate, le missioni legate all'osservazione della Terra, e quindi parliamo di tutto ciò che serve per monitorare l'ambiente, per esempio, ma anche satelliti di navigazione come Galileo. In genere operano su orbite più basse, più vicine alla Terra, e quindi abbiamo bisogno di lanciatori più piccoli per queste applicazioni. È per questo che la gamma europea si è completata con un lanciatore medio, che è il russo Soyuz, per cui abbiamo costruito una base qui in Guyana, e con il piccolo Vega, di cui faremo il lancio a breve, e che ha una capacità di 1,5 tonnellate in orbita bassa. Oggi l'attività spaziale è un'attività di squadra allargata, perché sono le industrie di tutta Europa che partecipano a queste realizzazioni, e con il settore lanciatori occupa 8.000 persone in Europa, quindi sono 8.000 famiglie la cui sopravvivenza viene da questa attività. Il naufragio della Costa Concordia. Il Ministero degli Esteri di Berlino ha confermato il riconoscimento di 2 vittime tedesche tra i 16 corpi finora recuperati, senza fornire altre indicazioni sulla loro identità. Tra i 2 corpi riconosciuti ci sarebbe la vittima tedesca di cui avevano parlato in precedenza le autorità italiane, ha precisato il Ministero. La lista di cittadini tedeschi che risultano ancora dispersi, secondo l'unità di crisi di Berlino, ammonta a 10 nomi. Presidio di protesta davanti all'ambasciata britannica di Buenos Aires, al grido di fuori gli inglesi dalle Malvine e fuori gli Yankees dall'America Latina. L'oggetto del contendere è sempre lo stesso: la sovranità sulle isole Falkland Malvine, sotto controllo britannico dal 1833 e reclamate dall'Argentina. Buonasera, donna. Buonasera, ragazza mia. Come sei bella. Caterina, sei in ritardo. Avevo tanta paura di non arrivare in tempo. E questo è un passaggio del film Lo sguardo di Ulisse del 1995, diretto da Teo Angelopoulos. Il regista greco è morto investito da una moto di una guardia mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto in Attica, dove Angelopoulos stava lavorando ad un nuovo film. Il regista aveva 77 anni. Un ricordo nelle parole del critico cinematografico Maurizio Porro al microfono di Adriana Fracchia. Una persona molto gradevole, molto simpatica, molto, fra virgolette, qualunque. Mentre il suo cinema naturalmente era tutto fuorché qualunque, è stato uno dei grandi autori proprio tipicamente europei, nati da tutto quel rivolgimento degli anni 60 e 70. E negli anni 70 in Italia un film come La Recita, nonostante la sua durata di quasi 4 ore, fu un vero fenomeno, un po' di culto, insomma, fra i cinefili. Tutti lo ricordano ora per i piani sequenza, cioè per quelle lunghe carrellate senza stacchi, che a volte sembravano infinite, erano infinite ma non erano lunghe. Angelopoulos era un autore che non voleva emozioni, non voleva sentimentalismi, voleva raccontare le storie a modo suo, con una preponderanza di uno stile. La Recita è stato appunto il film che l'ha lanciato, è il film a tutt'oggi il più noto, il più riverito, il più appunto di culto, come dicevo prima. Angelopoulos era una voce importante, anche se adesso non era più, come dire, di moda, però è bello ricordarlo proprio come un uomo che è stato sempre fedele a una sua idea di cinema, non facile, non semplice, non popolare, ma però è una di quelle idee che resteranno nella storia del cinema. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, a voi per averci seguito. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.